Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Top 40 Hits on Radio Tour, the movie station. I brani più richiesti da voi. Dietro del quinto blindata, della vetro blindata, abbiamo Gino Nuzzo e abbiamo la musica più bella, la musica più richiesta da voi questa settimana. Allora, prima di tutto voglio ricordarvi però, ragazzi, mettete sempre il casco, perché io scendendo qua a Napoli, scendendo in centro di Napoli, vedo sempre ragazzi senza casco e non fa senso. Io che senza, sono irlandese. Scusami, senza casco? Senza casco in motorino. Non è bello, non, non è bello. Bello. Va bene. Ma comunque, oggi tu al mattino per parlare così, sempre, spedito, come un treno. Io mi sono mangiato un bel croccatino di patata questo pomeriggio, prima di dire. Beata a te, perché io sono a digiuno ancora. A digiuno? Ma cosa? Ma allora la patata, lo sai, è il cibo fondamentale irlandese. Ma non era la banana il frutto, qual era? Non era la patata, scusami, eh. Disinformato! Allora iniziamo, dai, facciamo sentire un po' di musica. Vogliamo iniziare col numero 40, è logico, no? Allora, troviamo gli 883 che adesso sono in giro per l'Italia facendo il tour col Grazie Mille Tour 2000. E loro praticamente hanno preso l'idea di quest'estate. Sul palco ci sono cabine, straie, ombrellone, tavole di surf, sabbia vera e palme finte. Proprio una bella cosa queste cose per gli 883. The Sound of the Summer al numero 40, la regina delle celebrità. Position 4. Just another good vibration. The Sound of the Summer on Radio Tour, the moving station. That's the Red Hot Chili Peppers with Californication al numero 39. E questi Red Hot Chili Peppers si può immaginare proprio adesso sulla spiaggia, questo ragazzi col torso nudo, proprio tipo di surf, che ci portano proprio in California. È il titolo del brano che suggerisce un po' anche il sex on the beach, vabbè, che si può fare. Dall'album Californication, that's Californication, al 38 troviamo Tira Mancino con la descrizione di un attimo. DJ, my DJ, that's Carolina Marchese. È sabato il 22 luglio, siamo in pieno estate. E essendo sabato, essendo l'estate, sicuramente stasera andate a ballare. Dove andate, chissà, comunque speriamo che questo brano sarà un parte della vostra soundtrack, perché fa ballare. Io e Gino siamo qua a ballare in questo studio qua, ma anche voi il pubblico. Però stasera magari ci becchiamo a qualche discoteca. I Top 40 stiamo ascoltando, facciamo una piccola pubblicità e torniamo con Eagle Eye Cherry. Hey Cherry, are you still having fun? La settimana scorsa ho disannunciato questo dicendo che suo padre, Don Cherry, era un grande trombista. Magari lo era, però da allora i miei amici mi hanno spiegato che infatti dovevo dire trombettista. Ecco, la musica mi imbroglia sempre. Grande cosa. Allora siamo arrivati al numero è 35, scusate. Love Connection with the Bomb. Yes, we're dancing, we're all dancing around here. Siamo tutti quanti a ballare. Adesso ho ricevuto un messaggio sul GSM Box 0348 2438 888. Don Manuela che ha detto: è troppo bella sta canzone, sto ballando. E voi? Yes, stasera saremo tutti quanti a ballare pure a Disco Downare, come si dice. Disco Down, House of Glass, che voi avete messo al numero 32. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo con la French Affair. More music for dancing. It's a song called My Heart Goes Boom. I know you know it all, yes. On Radio Tour, the moving station, piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Heart Goes Boom, che noi troviamo il numero 33 sulla nostra classifica dei brani più richiesti da voi this week on Radio Tour, the moving station. Right, un paio di messaggi sul GSM Box. Allora, Francesco vuole fare sapere che ama Virginia, cioè lui ama Virginia, non io. Magari sua Heart Goes Boom per lei. Buona estate a tutti, dice Francesco, grazie. E Enzo vuole sapere perché le ragazze sono così cattive. Insomma, questo non lo so Enzo, però magari sono come i gatti che sono molto cattivi con i topi, però quando ti vogliono dare l'effetto non c'è niente meglio al mondo. Allora, siamo arrivati al numero 33, al numero 32 troviamo un'altra grande hit, Fragma with Tucker's Miracle. Singing na na na na. E quante persone mi dicono: Fergal, quanto sei fortunato, perché tu capisci le teste delle canzoni, dei brani, che tu parli inglese, insomma, che è fortunato, ba ba ba. Allora ragazzi, pure qua potete sfruttare questo tecnico di capire tutto, perché questo non è difficile. Na na na na, che vuol dire? Avete le stesse idee di me? Niente, non so, non ho idea. Allora siamo arrivati qua con il NECA al numero 31. Facciamo una piccola pubblicità, torniamo con Bumblebee. Sapevi che Barbie sapeva cantare. Infatti pensavo che Barbie fosse quello con l'acqua. Boh, non lo so, comunque noi le troviamo with Wake Me Tonight al numero 30 dei brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station. Allora, un paio di messaggi da leggere. Stefania ha detto, sei proprio irlandese? Grazie del complimento, sono irlandese. Infatti domani forse faccio un po' di programma in gaelico, chissà. Poi per Titi ha detto che sei stupendo, facci sentire Billy Moore che arriva tra poco. Però adesso abbiamo Paola e Chiara che si trovano al numero 29 dei brani più richiesti da voi with Vamos a Balar. Come Paola e Chiara, Vamos a Balar. E ho avuto il fortuno di vedere un vecchio video di loro sul televisore in questa settimana. E devo dire quanto sono cresciute queste belle ragazze, Paola e Chiara. E tra l'altro sono pure sorella. Che bella cosa, una bionda, una morra. Mi piace le ragazze così. E sono proprio sorella e ho detto, va bene, non sono napoletane, però sono belle quasi quando le napoletane. Al numero 29. Allora, voglio fare un paio di messaggi qua perché il GSM è andato proprio in tilt adesso che non siamo sulle spiagge. Sulle spiagge non porto il telefonino per non mettere la sabbia dentro. Però mo che siamo in studio, ci sono tanti da leggere. Allora, Michele, ti amo un casino, ti amo per tutta la vita. Un saluto a Stefania, ti voglio bene, Vale. E Stefania vuole salutare a James, un ragazzo inglese. She sends you a kiss, James. Ok, Marco ha detto vivo l'Irlanda. E poi ho ricevuto un bellissimo messaggio dicendo non ho più soldi. Non fermato. Va bene, va bene, che si può fare? Summer without money non è una cosa buona. Comunque, a good summer a tutti voi, la vostra musica è fantastica. Non fermato, però thank you, I had to read that. Devevo leggerlo perché è un bel complimento. E poi Francesco ha detto perché non leggete mai i miei messaggi? Eccomi qua, Francesco, è il primo messaggio che mi mandi. Mandami un altro e te lo leggo pure. Comunque, you're listening to the top 40 hits on Radio Tour The Moving Station, i brani più richiesti da voi in this wonderful summer of July 2000. Adesso dobbiamo fare una cosa, in lesso che il tempo non ha molto importanza durante l'estate perché siamo free and easy, però sincronizziamo gli orologi lo stesso, eh? Ladies and gentlemen, the clock. Le 16. The top 40 classifica dei brani più richiesti di voi. Io sono Fergal Kavanagh, dietro della vetra c'è il grande Gino Nuzzo. Allora, adesso questo è Marie Delle, So ancora di te, che si trova al numero 28. E lei qua dice, dove sei? Non lo so, ti porto sempre in giro con me. E infatti noi ti portiamo, vi portiamo in bel posto adesso. Vi portiamo al nord Italia, a Brusson, col collegamento con Gianfranco Lucariello. Radio Tour, The Moving Station, in diretta dal ritiro del Napoli. Buongiorno, buon pomeriggio da Brusson, non fuori programma. Top 40 hits. Position number five. Call with In These Shoes, che voi avete messo proprio nel nostro brano dei brani più richiesti, il nostro elenco dei brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station at number 27. Yes, great music. E Kirsty MacColl adesso è molto influenzata da questa musica cubana, no? Questa musica sudamericana. Infatti spiega che 3 anni fa si è andato in America del Sud a scoprire questi suoni di quei luoghi, e quando è tornato a casa in Inghilterra è rimasto talmente influenzato da quei luoghi che è tornato in Sud America ben 9 volte. Questa musica è cubana, brasiliana, tutto troppo bella, la musica dell'estate, the sound of the summer. And the sound of the summer continues on Radio Tour The Moving Station with numero 26, Gaia with Never Meet. Position number 2. Ti regala grande Elisa, e proprio con questo brano è proprio andato un po' verso le chiavi elettronica, no? Cioè questa musica è molto più elettronica che quello bel folk che facevo sull'ultimo album, però sempre un bel pezzo questo. Piace a voi ovviamente perché voi l'avete votato al numero 25 sul classifica dei brani più richiesto. Allora, un paio di messaggi. Ok, anch'io sono figlio del Shamrock, mi chiamo Patrick e abito a Sorrento. Saluti a tutti gli irlandesi d'Italia. Thank you Patrick. Vorrei anche salutare a Jumpy e Mark e Michael. E poi Franci dice I'm very tired, I love your program and I love Mark too. Tanti per Mark lì. Piccola pausa per noi, torniamo con la posizione numero 24 tra poco and Whitney Houston. Il successo di Whitney Houston che si trova sul suo greatest hits con un po' di aiuto di George Michael qua. Che bella combinazione, eh? Io mi ricordo negli anni 80 quando erano concorrenti e magari non si erano amici, non lo so, però adesso stanno collaborando insieme e si trova questo bel music sound of the summer al numero 24 sui brani più richiesti da voi. Allora, voglio fare un piccolo saluto ad Osvaldino che mi ha scritto in inglese, manda tanti baci, sends a lot of kisses to his girlfriends, thanks, there you go, però non ci ha detto il nome. Stassi ci ha scritto tanto tempo fa, mi scusami che non te l'ho letto prima, mi ha chiesto di quale squadra tifo. Chiaramente ragazzi, la squadra migliore, gli azzurri, in Napoli. L'anno prossimo vinceremo lo scudetto, di sicuro saremo il numero uno. E adesso al numero 23 troviamo un canzone che ci ha chiesto Titi un po' di tempo fa. Titi, questo è per te, al numero 23, Billy Moore with Up and Down. Position number... L'amore, e l'avete visto in televisione, questo look gangster anni 50. Lui spiega che quello per lui è un abito di gala e che lo indossa per un rito, che è come quello del torrerero prima di entrare nell'arena, che trova le sue sforze nelle scarpe magiche. Allora, proprio una cosa latinoamericano qua. E noi continuiamo con il tema del latinoamericano, però prima di fare così voglio ricordarvi il GSM Box, perché qualcuno mi ha mandato un messaggio dicendo: ma qual è il numero? Io vorrei sapere come me l'hai mandato un messaggio se non lo sai. Comunque è 03 48 24 38 888. Al numero 21 abbiamo il grande Santana e Corazon Espinado. Position number... Carol Di Borro al numero 20 on the classifica dei brani più richiesti da voi. E lei ultimamente è stato San Marino alla festa della musica e ha ricevuto un bel premio. Gli hanno chiesto: ma ti piace il cannolo siciliano? Lei ha detto: basta che sia duro. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Non lo so. È siciliano, il cannolo siciliano è buono, morbido, proprio bello. Comunque andiamo avanti con la classifica. Al numero 19 al bel Bon Jovi with It's My Life. Loud, you're listening to Jennifer Lopez al numero 18. E Jennifer Lopez dice che non riesce a capire la sua reputazione come the baddest bitch in Hollywood. Dice che non è così cattiva lei, comunque forse i parti che ha fatto quando era pure attrice ha fatto questo. E lei, come sappiamo, è fidanzata con Puff Daddy, e problemi per Puff Daddy in questi giorni. C'è una causa di circa 400 miliardi di lire contro lui e sua etichetta, perché Lil Sisto, un rapper della sua etichetta, ha registrato una conversazione telefonica privata tra lei e un'altra ragazza, che poi ha sostenuto che questo è un vero e proprio invasione della sua privacy, e perciò chiede questo grande cifra. Wow, perciò Jennifer Lopez deve farlo proprio forte per guadagnare questi soldi per suo fidanzato. Allora siamo qua su Radio 2 The Movie Station, playing the best sounds of the summer, top 40 dai brani più richiesti da voi. Da Jennifer Lopez saltiamo al numero 17 e troviamo lo Riches with 537 Cuba. SSP al numero 17 sulla classifica dai brani più richiesti da voi on Radio 2 The Moving Station. Messaggi veloci, vi ricordo il numero è 0348 24 38 888. E quindi vogliamo dire: Doriana, vorrei salutare mia madre, mia migliore amica Franci. Da quanto tempo lavori per la radio? Ci sono un paio di mesi ormai, Doriana, grazie. Poi Rosario, siete grandi, grazie, avete portato la fortuna a Napoli in Serie B, forse anche in A. E poi Mimo e Giuliana si sono sposati giovedì, e quindi buon viaggio a loro. E loro vanno in Egitto, quindi veramente buon viaggio. E siccome si sono appena sposati, in questi casi che si fa? Si auguri i gemelli? Non lo so, però al numero 16, Gemelli Diversi with Musica. Excellent, taken from the album Play. E Moby è stato chiesto da Madonna di collaborare con lei, ma purtroppo adesso Moby non ha molto tempo. Dice che adesso vuole sfruttare il tempo per se stesso, sfruttare questo felice di momento del successo con 14 dischi di platino in altrettanti diversi paesi. È incredibile. Comunque il nuovo album di Madonna uscirà a settembre, anche se non ci sarà Moby. Moby assicura che prima o poi lavorano insieme, perché Madonna è un artista di talento che mi piace moltissimo, dice. Va bene, there's Moby for you on Radio Tour at number 15. Number 14, un canzone di amore per tutti voi, Innamorati. Questo è I Think I'm in Love with You by Jessica Simpson. Ladies and gentlemen. Le 17. Stiamo trasmettendo qua dallo studio centrale a Napoli, Radio Tour The Moving Station, e abbiamo qua dietro il microfono, io sono Fergal Kavna, e dietro la quinta vedo qua Gino Nuccio e pure Fiore, che oggi era il tuo giorno di riposo, no? Ma che ci fai? Vabbè, non riposano mai i tecnici di Radio Tour, che noi siamo sempre in movimento. Noi stiamo facendo sentire i brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station. Max Casey è il uomo più furbo, che devo dedicare a Tico, perché c'è scritto un messaggio qua, immagino, dalla tua ragazza. Però non ha firmato, ha detto: non pensare che siamo troppo diverso, basta un sorriso per capirci, ascolta l'uomo più furbo e capirai cosa sto provando. Ecco, questa è la cosa che sta provando. Questo era il numero 13. Al numero 12, Ronan Keating with Life is a Roller Coaster. Mare, oggi ho ricevuto, adesso ho ricevuto questo messaggio da Marco, Giampaolo e Michele, che dicono che siamo grandi, grazie, che loro stanno al mare e tira viento, immagino che questo sia napoletano, eh? E Radio Tour le stanno ascoltando a tutto volume, quindi questo è per voi e pure per quelli che sono accanto voi, intorno a voi sul sulle spiagge ascoltando la vostra radio. Bella musica alla classifica al numero 11, Carlotta Canfrena. Quindi vuol dire mancano 10 brani, il top 10 su Radio 3 The Moving Station. Facciamo il numero 10, una bella cosa, la Bella Perez with Hello World, Salute Mondo, al numero 10. Top 40 on Radio 3 The Moving Station, coming at you on this sunny Saturday afternoon. Al mare, al sole, in città, ovunque che siete, restate con noi, la più bella musica. Backstreet Boys, which is at number 9, not number 1 at all. Numero 9, Backstreet Boys. E notizie di Brian Littrell, che magari un giorno voleva non essere proprio the one che era scelto, perché è stato arrestato in un supermercato quando stava lì a fare le spese con sua fidanzata in Atlanta, in Georgia, in America. È stato scambiato praticamente per un ladro, per il gestore del negozio, perché è stato circondato dai fans che cercavano autografo, e un vero ladro, approfittando della confusione, ha cercato di rubare un TV e il gestore ha chiamato la polizia e tutti e due sono stati arrestati. Meno male però per Brian Littrell, si sono resi conto più prima che poi dell'errore, e perciò è libero a fare la bella musica che noi vi facciamo ascoltare su Radio 2 The Moving Station. At number 9, at number 8, Tony Braxton, He Wasn't Man Enough. Attenzione, eccoci. Cosa dice una gamba all'altra? Vai Luna Pop, cosa dice una gamba all'altra? Vediamo. Che dice una gamba all'altra? C'è qualcosa di grande tra di noi. Di sicuro non si può scordare mai. Grande questo. Allora, numero 7, Luna Pop con qualcosa di grande. Piccola pausa per noi e torniamo con Lorenzo. Il numero 6 with Dolce Far Niente. Io Dolce Far Niente, questo è Lorenzo o Giovanotti al numero 6 sulla nostra classifica dei brani più richiesti da voi. E povero Giovanotti adesso non c'ha niente da fare, diciamo. È un po' impegnato perché sotto casa sua a Cortona ha partorito un bel gatto e ci sono bei cuccioletti sotto casa sua, e lui ha messo un notice sull'internet dicendo: c'ho dei cuccioli belli come il sole, che vanno dal grigio metallizzato al colore del nuvole al tramonto, sono belline. Quindi se lo volete, io sono a casa fino all'inizio di agosto, venite a Cortona a prenderlo. E se volete fare questa cosa, un gatto che è nato sotto casa di Giovanotti, o li contate o ci andate a Cortona a casa sua, o contatelo presso l'email di Saturnino, che sarebbe saturnino@soleluno.interbusiness.it. E ricordatevi, il gatto è una bella responsabilità, però una bella cosa di avere. Noi andiamo avanti al numero 6, anzi al numero 5 troviamo John Secada with Stop. Però voi non dovete stoppare ad ascoltarci, perché mancano 4 brani al numero 1, anzi 3 secondi il fatto che facciamo 4, 3 e 2 e poi il numero 1. E sono i più bel brani da voi richiesto. E voi adesso questo sabato pomeriggio dove vi trovate? Vi trovate a preparare già per la sera? O vi trovate a rientrare dal mare? O vi trovate ancora al mare? Non lo so, dovunque che siete, spero che siete bene ascoltando questa bella musica dei Radio 2 The Moving Station, la classifica votata da voi. E quest'ora proprio vi invidio, se siete alle spiagge, sul spiaggia, al mare, che quest'ora per me è l'ora migliore, essendo irlandese, le trovo un po' più freschetta. Quindi se siete sulle spiagge e state pensando di allontanarvi, no, fermatevi un'altra oretta, perché abbiamo ancora un po' di bella musica da farvi ascoltare, e come ho detto, questo è l'ora migliore di starci. Ok, facciamo una piccola pausa e troviamo con il numero... Torniamo col numero 4, che sarà Britney Spears. Ed again Britney Spears al numero 4, number 4. E Britney Spears doveva fare un concerto a Denver mercoledì prossimo, però purtroppo è stato annullato. Avrebbe fatto al Red Rock Stadium, un anfiteatro che è stato costruito, diciamo, 150 milioni di anni fa, parecchio tempo fa. Magari li ricordate pure degli U2 Live at Red Rocks che hanno fatto Under a Blood Red Sky. Comunque, allora, praticamente in meno di un'ora, 9.000 fans hanno comprato i biglietti per il concerto di Britney Spears, e poi i promotori hanno controllato e hanno visto 9.000 persone non ci entravano, cioè era troppo grande questo richiesto. Quindi hanno deciso, piuttosto di deludere alcuni fans, di annullare proprio il concerto e deludere tutti quanti. Va bene, questo è Britney Spears, Oops I Did It Again, che voi avete messo al numero 4. Un piccolo riepilogo dal numero 10 ad adesso. Al numero 10, Belle Perez, Hello World. Backstreet Boys, The One, at numero 9. Number 8, Tony Braxton, He Wasn't Man Enough. And number 7, Qualcosa di Grande di Luna Pop. Number 6, Lorenzo Dolce Fare Niente. E Stop di John Segada si trova al numero 5. Number 4 abbiamo sentito appena adesso, Britney Spears with Oops I Did It Again. Quindi guardiamo il numero 3, i top 3. Al numero 3, Alexia, Ti Amo, Ti Amo. Number 3. Ti amo, ti amo. chiamate sicuramente ti amo diavolo, dice lei, e voi dite no, noi amiamo a te Alexia, e perciò lo mettiamo al numero 3 sulla classifica dei brani più richiesti qua su Radio 2 The Moving Station. E lei è tra gli ospiti del Gifoni Film Festival che si svolge proprio in questi giorni a Gifoni, e stasera vede la presenza del grande Rupert Everett, quindi tutti quanti lì giù a vedere questo bel uomo. Allora Alexia al numero 3, al numero 2 vediamo la Mosca with Parano Vederti Massa. Sparano Vertimas, devo dire, la Mosca, un po' di confusione lì per me con l'italiano e il spagnolo, no? Parano vedere, per non verti, va bene, assomigliano, però ci sono varie diverse differenze molto importanti. Io che sono irlandese, però, sono più preoccupato di come pronunciare bene questo italiano. Anyway, al numero 2 abbiamo sentito la Mosca, quindi siamo arrivati al momento that you've all been waiting for, siete aspettando questo momento da tanto tempo. What will be number 1 sui brani più richiesti da voi? Se vi dicessi il bel signore con gli occhi azzurri, la capiresti? Sì, chi c'ha occhi azzurri? E Neckal number 1 with Ci Sei Tu. Number 1 dei brani più richiesti da voi this week on Radio 2 The Moving Station. C'è Neck, ma qualche anno fa io mi ricordo Neck che diceva Laura non c'è, ma ovviamente ha trovato qualcuno per sostituire questa Laura, che sarebbe Ci Sei Tu, ecco, ma chi è? Comunque al numero 1 noi ci salutiamo, noi vi salutiamo, grazie dell'ascolto, noi ci risentiamo per la classifica sabato prossima alle 15 e domani saremo in onda, di nuovo alle 18 di sera di pomeriggio. Io sono Fergal Kavner, grazie di nuovo, grazie a Gina Nuzzo e grazie a Gina Nuzzo anche che ha fatto la regia. Dopo il punto ora sentiamo Luca e andiamo avanti con l'orologio. Ladies and gentlemen, the clock. Radio 18 e un minuto.